Dai, facciamogli leggere il computer sta roba qua. Vai. Sì. Aspetta, non so se... è un po' piccolo, devo alzare il volume. Alza il volume. Così si sente? Abbastanza. Alta musica estemporanea trattino by pan noi non cerco lo spazio ove. Ecco, siete pronti? Sì. Noi non cerchiamo alcuna collaborazione, ma semplicemente persone con sentimenti di lealtà e di rinnovamento nei confronti della musica che con spirito di vera solidarietà e tolleranza ci aiutino a diffondere il principio della libera discussione attorno a queste tematiche e del diritto a manifestare le proprie controtendenze nel tentativo di risollevare le sorti di un'attività culturale di fondamentale importanza qual è la musica. Siamo costretti a definire una netta linea di demarcazione fra musicisti virgolette consumati chiuse virgolette e musicisti virgolette da non consumare chiuse virgolette. Rivolgersi ai giovani nella speranza che tutto questo li possa aiutare a trovare un modo di esprimersi non virgolette coatto chiuse virgolette né mistificato dall'enorme influenza della società circostante. Ecco. E questa sulla... a me piace questa cosa della espressione tanto, della cioè? Possibilità di espressione. Sì. Questa, la possibilità di, di esprimersi. Sì. Sospendere il giudizio, ok? Sì, sì. Sì, quindi libera da attenzione. Ne parlavamo. Aspettare. Non andare a codificare tutto, no? E a generalizzarlo subito, incasellarlo nel proprio bagaglio culturale, ma permettersi di esserne, che questo fiume ti venga addosso. Mm-hmm. A proposito di fiumi, qual è il mio bicchiere? No, quello è il suo, questo è mio e il tuo è quello. Allora, ritorniamo alla prima frase, Marcolino. La prima frase è che bisogna promuovere e tutelare a tutti i livelli i musicisti che si occupano di musica estemporanea. Aspetta, non facciamo la prima di attaccare la baracca. L'ho già fatta. Già attaccata. L'hai già attaccata? Sei sicuro? Sì, sì. Sei sicuro? Sì. Sei sicuro di aver capito come funziona? Certo. Ti suscita lo zoo? Lo zoo, perché promuovere, tutelare, metterli sotto... Sottoteca. E questa musichina bella? Sì. Anche qua mi veniva una sigla, ecco. La me? Mm. Cioè? E cioè? M.E, musica estemporanea. La me, musica estemporanea. Che poi la me, tutto brillucchini, un vestito di la me. Il lamè, esatto, il lamè è tutto brillucichino, però lamè, il me sono anche io il soggetto, no? Lamè. E mela all'incontrato. la musica è estemporanea, ok, quindi è libera da catene storicizzate, libera da vincoli di mercato, libera da tentativi, qui dice, di riproporre un qualsiasi genere musicale, no? Però spesso, cioè, se io mi immaginassi di trasmettere, per esempio, della musica, in realtà è come la trasmetto che mi libera da queste cose spesso, eh? Non è forse neanche nella qualità del, nel tipo di musica, no? È come io mi pongo davanti a questo che posso, esatto, trasmettere, no? Esatto. Cioè, posso metterla, se me va la, una sinfonia di Beethoven, volendo, sì, sì, però in un contesto però di libero, no? Anche diverso da quello diverso, istituzionale, certo. Sarebbe fighissimo. Oggi, senti che ti racconto, oggi... Quindi noi stiamo fondando una radio, ma stiamo affondando la radio. Esatto, questa no, le nostre derive, no, si imperniano su questa lettera che stiamo un po', io almeno ho davanti. Come... Sì. C'è una delle parole in questa lettera che mi piacerebbe che guidassero, diciamo, il mio entusiasmo nel provare a intraprendere questa cosa, che sono queste. Una freschezza assolutamente incontrollabile. Questo dovrebbe essere quello che... No, cioè, è tutto... Cioè, in queste tre parole c'è la freschezza, che vabbè, è una cosa, no, che mi sembra quasi a pelle, no, quasi tattile, non si sa bene, no? E assolutamente, cioè, è divisa da qualsiasi condizionamento, no? Cioè, disciolta da tutto, no? Fuori da tutto, e poi incontrollabile, nel senso che non sai mai che cosa può creare, come questa nostra conversazione, no? Io la immaginavo proponendola in un modo e si sviluppa ovviamente in maniera incontrollabile, con cose che uno non aspetta. È una direzione che, per quanto mi riguarda, Neff ha preso, quindi io vorrei, mi fa piacere, insomma, se Neff andrà anche in questa direzione, quindi di approfondimento della, così come Ned del suono e del silenzio, così Neff della luce e del buio, perché le compete, perché si deve prendere la responsabilità di questo, secondo me, visto che ha iniziato questo lavoro. Sarà magari sarà in parallelo, sarà però se la deve prendere sta responsabilità, perché se ti occupi di musica ti devi prendere la responsabilità, anche se fai i jingle, comunque secondo me è sbagliato se non ti prendi la responsabilità del suono e del silenzio, perché te la devi prendere prima o poi, c'è poco da fare, ecco. Per cui mi è piaciuto quando mi hai detto attenzione, perché cazzo, ma non mi funziona a me sta cosa, però che noi facciamo da supporto a Ned, perché l'immagine comunque distorce rispetto al suono, ma distorce che invece il suono allinea, il sei, esatto, allinea. appunto notavamo, insomma, quanto in un momento in cui quelli che amano, che sanno di cosa stanno parlando per la musica, che viene istintivo ascoltare. Il suono fare. Cura, il suono ti cura mentre lo fai, il suono ti allinea. Ti allinea, ah, capito? Ti allinea così, no? Sì. Mentre l'immagine ti porta fuori, okay. Porta da fuori. Linea lì. Ed è proprio il suo lavoro, quello di portarti fuori da quella linea lì. Certo. Adesso appunto torniamo alla radio, no? Alla radio e quindi al suono, perché la radio comunque, anche se sarà supporto e divulgazione di Ned, a supporto e per è uno strumento utile per divulgare Ned, quella modalità più che altro, no? Lo fa con gli stessi mezzi, col suono. Gli stessi mezzi, Marcolino? Per me questo è il complementare di NEF, ok? Questo è la morale. Anche perché comunque la radio è sì una fonte sonora, ma è anche una grande creatrice di immagini. Io tutti quelli che sento, anche insomma gente che ascolta la radio, dice ma mi piace ascoltare la radio perché posso immaginare quello che voglio, quindi diciamo che la radio automaticamente certo. C'è un è come se esistessero delle immagini che non si vedono, ma sì, ci sono, è vero. Io pensavo che non avrei mai visto Dogo con in mano l'aspiratore, e invece hai visto che anche tu è sempre la freschezza incontrollabile, esatto. Ma cos'è? Maledetto! Anch'io voglio comprarmela una cosa. Questo è il robottino. L'orecchio si perde grazie all'occhio. La predisposizione è quella di alzarti dal letto. Ma nel letto immagini un sacco. Ah, è perfetto, io volevo che tu mi rispondessi. Cioè, nel niente fai un sacco di cose. Volevo che tu mi rispondessi questo, perché appunto dico. Nel letto, ho fatto un film di sogni, no? E dei sogni sono li fai nel letto. Allora sai, mi hai posto un tranello? Un'esca! Vedi che premeditato che è ben. Io vedo tanti dei miei coetanei che si interfacciano ai film come a nozioni di vita, esatto. No? Come a nozioni di vita. Quello perché l'ho visto in quel film. E bla. Una radio che adesso è ancora bambina, certo. È il primo giorno della sua vita. Sì. Okay. È stata concepita. Esatto. Però che ecco, felicità. Però anche un po' questo, male. Siccome è concepita da quelli che fanno questa cosa, cioè non sono dei tecnici, non sono delle persone, sono le stesse persone che fanno queste cose. Mm-hmm. Io sono convinto che la potremmo sfruttare per quello che serve. La potremmo sfruttare per quello che serve. Non quello che serve al mercato, insomma, non so come dire. Non quello che serve a un'altra cosa, ma quello che serve alla musica. Perché a noi quello interessa. Per cui è inevitabile che sarà così. Ecco, allora io ti rispondo quando tu mi dici ma bisogna avere delle conoscenze, delle cose. Le conoscenze sono questo desiderio, cioè se tu hai quel desiderio lì e piano piano lo approfondisci con queste tecnologie, con le possibilità di oggi, sì, eccetera, sì, che piano piano ti dimentichi pure perché dopo un po' ti rompi il cazzo di fare la diretta e lo streaming e la cosa perché ti interessano di più altre cose, ma le approfondisci, le fai, ci passi in mezzo, eccetera, e poi ne troverai delle altre, delle altre, delle altre. Ecco, quella è il tuo studio. È lo studio, sì. Simone, vieni a dire l'ultima verità prima che spenga. Lo streghetta. Com'era, com'era quella prima in Veneto? Sacranon. Sacranon. Dai, dillo bene. Sacranon. Sacranon. Sacranon. Dillo anche tu, turco. Sacranon. Ho detto bene. Più o meno.